Le calzature. Queste donne vanitose si comportano in maniera simile anche riguardo alle calzature. Anche qui esprimono una gran mollezza. Ad esempio, sono veramente vergognosi quei sandali su cui fanno mostra di sé fiorellini d'oro. Alcune si fanno fissare borchie a guisa di spirale anche sotto le suole. Molte poi vi fanno incidere lubrici sentimenti d'amore, così che, ritmando la terra con i loro passi, imprimono su di essa, con lo stesso camminare, i loro pensieri di prostitute. Bisogna dunque eliminare la vana arte degli orpelli d'oro e di pietre preziose sui sandali, come pure i calzari attici e sicioni, i coturni persiani ed etruschi, ed avendo sempre di fronte a noi lo scopo retto, come è abituale per noi che perseguiamo la verità, dobbiamo scegliere ciò che è secondo natura. L'uso delle calzature, infatti, serve da una parte per riparare i piedi stessi e dall'altra per proteggerli dagli inciampi della strada e dai sassi in montagna, a difesa delle palme dei piedi. Alle donne si può concedere di usare calzature bianche, a meno che siano in viaggio. In tal caso devono avere sandali unti con grasso. Quelle che viaggiano poi abbisognano di suole chiodate. Comunque, in generale, le donne devono indossare delle calzature, poiché non è bene che mostrino il piede nudo. Inoltre, la donna è soggetta a scivolare facilmente e a farsi male. L'uomo, invece, è senz'altro opportuno che stia a piedi nudi, eccetto se fa il soldato. L'essere calzati, ipodedestai, infatti è qualcosa di simile all'essere incatenati, dedestai. L'andare a piedi nudi invece è un'ottima ascesi, fa bene alla salute e facilita i movimenti, a meno che non vi sia qualche necessità che lo impedisca. Se però non siamo in viaggio e d'altronde non tolleriamo di camminare a piedi nudi, allora bisogna usare sandali o mocassini. Gli attici li chiamavano conipodes, per il fatto, mi pare, che con essi i piedi, pode, sono quasi a contatto con la polvere, conis. Ci basti Giovanni Battista come testimone di una calzatura semplice, lui che confessò di non essere degno di sciogliere i legacci dei sandali del Signore. Non calzava certo nulla di superfluo colui che stava mostrando agli occhi degli ebrei il modello della vera filosofia. Se poi questo fatto allude anche ad altre cose, ciò sarà illustrato altrove. Non bisogna eccitarsi per le pietre preziose e per gli ornamenti d'oro. Il vano lusso delle pietre preziose. È puerile restare sbalorditi davanti a pietre nere o verdi, davanti ai rifiuti che il mare rigetta e davanti ai detriti della terra. Correre dietro a pietruzze luccicanti, a colori peculiari e a vetri variegati non si addice se non a persone insensate, che si fanno attirare da tutto ciò che colpisce per l'apparenza. Similmente, i bambini, avendo visto il fuoco, sono attirati verso di esso dallo splendore che emana, ma a motivo della loro ignoranza non considerano il pericolo che c'è nel toccarlo. Tale è l'effetto che sulle donne sciocche, elitiai, hanno le pietre preziose, litoi, legate ai monili o incastonate nelle collane. Ametisti, cerauniti, diaspri, topazi e lo smeraldo di Mileto prodotto di altissimo valore. Quanto poi alla preziosissima perla, essa ha fatto strepitosamente irruzione nelle stanze delle donne. Nasce all'interno di una certa conchiglia molto somigliante al mollusco di pinna ed è grande quanto un occhio di pesce di media misura. Queste donne miserabili non si vergognano di impegnare tutte le loro energie dietro a questa conchiglietta, mentre avrebbero la possibilità di adornarsi di una pietra santa, il Logos di Dio, che la scrittura chiama perla. Gesù, splendente e puro, l'occhio che contempla Dio nella carne, il limpido Logos, tramite il quale la carne è stata rigenerata attraverso l'acqua ed ha così riacquistato il suo grande valore. Quella conchiglia, infatti, si produce nell'acqua, ma si ricopre di carne per proteggersi ed è da questa carne che si genera la perla. Abbiamo appreso che la Gerusalemme che è in alto è stata edificata con pietre sante e riconosciamo che le 12 porte della città celeste, paragonate a pietre preziose, simboleggiano la lucentezza della grazia degli apostoli. Su queste ricche pietre sono stati posti i colori preziosi. Tutto il resto invece è lasciato via come materia terrena. Ben a ragione, dunque, la città dei santi, edificata spiritualmente, viene costruita simbolicamente da queste pietre. Sulla base dello splendore senza pari delle pietre, i santi hanno compreso lo splendore, incorrotto e santo nella sua essenza, dello spirito. Queste donne, invece, non afferrando il senso simbolico delle scritture, sono incantate dalle pietre preziose e adducono quella solita assurda giustificazione. Delle cose che Dio ci ha messo sotto gli occhi, perché non dovremmo usarne? Le abbiamo qui, perché non trarne piacere? Per chi è stato creato tutto ciò se non per noi? Queste sono parole di persone che ignorano completamente la volontà di Dio, il quale offre a tutti, ben visibili, le cose che sono necessarie, come l'acqua e l'aria, ma ha nascosto nella terra e nell'acqua ciò che non è necessario. Il buon uso delle ricchezze è la vera bellezza. Pertanto sono le formiche che scavano nell'oro, sono i grifoni che lo custodiscono ed è il mare che nasconde le perle. Ma voi siete avidi di ciò che non si deve desiderare. Ecco, il cielo intero si è dispiegato e voi non vi cercate Dio. L'oro e le pietre preziose invece sono celati e presso di noi sono i condannati a morte che li estraggono nelle miniere. Voi contraddite la stessa scrittura che esplicitamente proclama: cercate prima il regno dei cieli e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. In verità, se tutto vi è stato dato in dono, se tutto vi è stato concesso, se tutto vi è lecito, non tutto però conviene, dice l'Apostolo. Dio stesso ha condotto il nostro genere umano ad avere le cose in comune, egli che per primo ci ha fatti partecipi di ciò che è suo ed ha elargito a tutti gli uomini in comune il suo Logos, avendo creato tutto a favore di tutti. Tutte le cose sono dunque in comune e i ricchi non bramino avere di più. Dire: è qui a mia disposizione, ne ho in abbondanza, perché non trarne piacere? Non è conforme né al sentimento umano né al sentimento di comunione. Conforme alla carità, piuttosto, è dire: è qui a mia disposizione, perché non farne partecipi i bisognosi? Perfetta è una persona di questo genere, la quale così adempie al precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo è vero piacere, questa è la ricchezza per un vero tesoro, mentre la spesa che si fa per soddisfare varie brame non può essere considerata una spesa per un acquisto, bensì semplicemente una perdita e una rovina. So bene che Dio ci ha dato potere di servirci dei beni creati, ma solo entro i limiti del necessario, e inoltre ha voluto che l'uso ne fosse comune. È inconcepibile che uno goda mentre i più soffrono. Quanto è più nobile beneficare molti che vivere nel lusso? Quanto è più intelligente spendere denaro per esseri umani che per pietre e oro? Quanto è più utile acquistarsi amici onesti, cosmioi, piuttosto che ornamenti, cosmia, senza anima? Chi potrebbe trarre tanto vantaggio dai suoi terreni quanto dal far piacere agli altri? Resta da risolvere ancora un'obiezione. Se tutti scelgono la semplicità, di chi saranno le ricchezze? Degli uomini stessi, rispondo, a patto che ne usino senza attaccamento e senza privilegi. Se però è impossibile che tutti siano così saggi, allora almeno coloro, i cristiani, che hanno deciso di lasciar via lontano da sé tutte queste cose superflue, perseguano solo i beni che sono facili da procurarsi e il cui uso sia realmente necessario. Bisogna dunque che le donne, che rinunciano al mondo, cosmos stesso, buttino via assolutamente tutti gli ornamenti, cosmia, come i gingilli da bambine. Bisogna infatti che esse siano adorne dentro e che mostrino bella la donna interiore, poiché è solo nell'anima che si manifesta la bellezza o la bruttezza. Perciò solo chi è serio è veramente bello e buono, e solo ciò che è bello viene reputato anche buono. E solo la virtù traspare anche attraverso un corpo bello e fiorisce nella carne, mostrando l'avvenenza della saggezza, degna di essere amata, allorquando la moralità risplende come una luce sulla forma del corpo. Ora, La bellezza di ogni essere, vegetale o animale, risiede nella virtù propria a ciascuno. Le virtù dell'uomo sono la giustizia, la temperanza, il coraggio e la religiosità. Perciò l'uomo è bello se è giusto, temperante e, in una parola, buono, non se è ricco. Ormai, invece, perfino i soldati vogliono adornarsi d'oro. Non hanno letto quel che dice il poeta: colui che andava in guerra munito d'oro a guisa di vanitosa fanciulla. Vanità e inganno degli ornamenti preziosi. Bisogna sradicare completamente la passione per gli ornamenti, così incurante della virtù e così sollecita del corpo, dal momento che l'amore della bellezza ha deviato seguendo la vanagloria. Questa passione, infatti, applica al corpo, come se gli fossero adatti, ornamenti che non gli sono adatti e genera così la tendenza alla falsificazione e l'abitudine all'inganno. E invece di mostrare ciò che è venerabile, non artefatto e genuino, mostra ostentazione, effeminatezza e mollezza. Queste donne oscurano la bellezza vera offuscandola con l'oro e non si rendono conto di quale grande torto commettono circondando se stesse di infinite ricchezze a mo' di catene, proprio come presso i barbari si dice che i malfattori vengano legati con catene d'oro. Credo che le donne siano mosse da invidia verso questi ricchi prigionieri. E infatti le loro collane d'oro e i braccialetti non sono forse un collare da gogna? I cosiddetti cateteres, ad esempio, sono fatti a guisa di catene e gli attici li chiamano appunto con il nome di catene. Filemone, nel Sinefobo, chiama catenacci alle caviglie l'indecente ornamento che le donne si mettono intorno ai piedi. Vesti diafane e un catenaccio ai piedi aureo. Che cosa significa dunque questo zelo di abbellirvi, o donne, se non che volete mostrare voi stesse incatenate? La materia con cui vi incatenate attenua la vergogna, ma l'impressione è la stessa. A me sembra che costoro, gettandosi volontariamente in catene, vogliano menar vanto della loro ricca sciagura. Forse, quando il mito dei poeti dice che ad Afrodite adultera furono gettati intorno simili catene, non allude ad altro se non al fatto che gli ornamenti sono simbolo di adulterio. Anche quelle catene, infatti, sono detto da Omero, auree, ma esse ormai non hanno più vergogna di portare addosso i più palesi simboli del male. Come il serpente ingannò Eva, così l'ornamento d'oro, assumendo la forma di serpente, prende all'amo le altre donne e fa perdere loro la testa trascinandole alla sfrenatezza, intanto che esse si foggiano a proprio decoro murene e serpi d'oro. Come dice il comico Nicostrato, catene, collane, anelli, braccialetti, serpi, cerchi alle caviglie, orecchini. Con evidente intenzione di biasimo, Aristofane, nelle Tesmoforiazuse, passa in rassegna tutti gli ornamenti femminili. Citerò qui le parole stesse del poeta comico che denunciano serratamente la grettezza della vostra distorta concezione del bene. A. Cuffie, bende, nitro, pomice, fascia, retrobenda, velo, belletto, collane, trucco agli occhi, gonna a strascico, orecchini, retina per i capelli, cintura, scialle, mantellina, veste orlata, tunica, chitone, voragine, sopravveste, tunichetta. E non ho detto le cose più importanti. B. Quali ancora? A. Pendenti, brillanti, orecchini, molochiti, grappolini, braccialetti, fermagli, cerchietti, ghirlande, catenelle ai piedi, gemme, catene, anelli, cremine, fiocchi, borsette, falli in cuoio, pietre sardie, collari, tondini. Mi sono stancato e sento il fastidio di parlare di questa moltitudine di ornamenti. Mi viene anche da meravigliarmi di come esse non si sentano oppresse portando addosso un tale carico. O vuota sollecitudine, o vana ossessione delle apparenze. A guisa di cortigiane esse sperperano il denaro per cose vergognose e contraffanno i doni di Dio con il loro cattivo gusto, rivaleggiando in arte con il maligno. Il Signore, parlando nel Vangelo del ricco che aveva accumulato nei granai, dicendo tra sé: ora possiedi molti beni per molti anni, mangia, bevi e divertiti, dice chiaramente che era un insensato. Questa notte stessa ti verrà presa la tua anima. Ciò che ti sei preparato, di chi sarà? Il pittore Apelle, vedendo uno dei suoi alunni che dipingeva Elena tutta bardata d'oro, gli disse: «Giovinetto, non riesci a disegnarla bella, per questo l'hai fatta ricca». Le donne di oggi sono appunto come questa Elena, non genuinamente belle, ma piuttosto riccamente costruite. È di queste che profetizza lo spirito per bocca di Sofonia. Il loro argento e il loro oro non potranno salvarli nel giorno dell'ira del Signore. Alle donne che sono sotto la pedagogia di Cristo si addice adornarsi non di oro, ma del Logos. Solamente esso, infatti, mette in luce l'oro. Beati sarebbero stati gli antichi ebrei se, dopo aver portato via alle donne i loro ornamenti, li avessero gettati via o solamente fusi. Invece li fusero per farci un vitello d'oro, che adorarono come idolo. In tal modo, per se stessi non trassero alcun vantaggio dalla loro arte e dal loro intento, ma alle nostre donne diedero un esemplare insegnamento: astenersi dagli ornamenti. Il prostituirsi del desiderio con l'idolo d'oro viene punito con il fuoco. Solo al fuoco, infatti, è riservato il lusso, che è però solo un'apparenza, eidolon, non la verità. Per questo il Logos, rimproverando gli ebrei per bocca del profeta, dice: «Fabbricarono per Baal oggetti d'argento e d'oro, ossia degli ornamenti», e poi lancia questa esplicita minaccia: «E farò giustizia su di lei, Israele, per i giorni in cui hanno adorato i Baal, quando Israele sacrificava ad essa, Baal, quando si ornava di orecchini e di collane». E poi aggiunge il motivo di tale adornarsi: «Correva dietro ai suoi amanti e dimenticava me», dice il Signore. Vivere secondo natura e in santa povertà. Che esse dunque rinuncino a queste sciocchezze e le lascino al maligno sofista. Non prendano parte a questo adornamento da prostitute e non commettano idolatria sotto il velo dell'eleganza. Davvero ammirevole quel che dice il beato Pietro. Similmente, le donne voglio che si adornino non con trecce, oro, perle e vesti sfarzose, bensì, come si addice a donne che fanno professione di pietà, con ornamento di opere buone. E ben a ragione prescrive ad esse di tenersi lontane dagli imbellettamenti. Se infatti sono belle, allora la natura basta. L'arte non cerchi di gareggiare con la natura, l'inganno non contenda con la verità. Se invece di natura sono brutte, allora con ciò che si aggiungono non fanno che sottolineare ciò che non hanno. Coloro che sono serve di Cristo dovrebbero quindi abbracciare la povertà. Essa infatti procura realmente la santità, appianando l'avidità e traendo dalle cose comuni la stessa utilità che si ricava dal superfluo. Ciò che è povero, infatti, come indica il nome stesso, non primeggia, non si gonfia né inorgoglisce, ma è tutto piano, placido, uguale, senza eccessi e in tal modo risulta sufficiente. Ora, l'autosufficienza è la condizione che consente di raggiungere il proprio traguardo naturale, senza difettare né eccedere, e di queste due ultime qualità, madre è la rettitudine, balia l'autonomia, autarcheia. Questo è lo stato che consiste nell'accontentarsi del necessario e nel procurarsi da sé ciò che conduce a una vita beata. Il vostro ornamento santo risieda dunque nelle opere delle vostre mani, generosa comunione e custodia della vita domestica. Infatti, chi dà al povero presta a Dio e le mani dei forti producono ricchezze. Chiama forti coloro che disprezzano le ricchezze e che sono sempre pronti a farne parte agli altri. I vostri piedi risplendano non per i cerchi d'oro alle caviglie, ma per una pronta sollecitudine a fare il bene e per il loro camminare verso la giustizia. I veri cateteri e collari sono il pudore e la temperanza. Di tali gioielli Dio stesso è l'orefice. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha scorto la prudenza, dice lo spirito per bocca di Salomone, poiché è meglio acquistarsi la sapienza che tesori di oro e d'argento. e più preziosa di pietre lussuose. Questo è vero ornamento. Esse dunque non si forino le orecchie, cosa contro natura, per appendersi orecchini e pendenti. Non è lecito far violenza alla natura operando contro ciò che è stato stabilito da Dio. Del resto non esiste altro miglior ornamento per le orecchie che la vera dottrina, ornamento che discende nei canali dell'udito secondo natura. Così gli occhi unti con il Logos e le orecchie forate per aprirsi alla percezione spirituale rendono l'uomo uditore delle cose divine e contemplatore delle cose sante, e così, in tutta verità, il Logos manifesta la vera bellezza, quella che prima occhio mai non aveva visto né orecchio aveva udito.